presto o tardi, loro hanno il loro progetto. Perché questo progetto cattivo di bruciare l'intero Egitto, perché loro hanno la voglia di governare il paese in modo non è civile, non esiste democrazia, non esiste rispetto dell'umanità. 2 giorni fa, dopo hanno sgombrato le manifestazioni del Rabaa al-Adawiyya, hanno trovato più di 38 cadaveri, hanno nascosto sotto le loro tavole. Non è un modo civile, non è un modo umano. Cristiani e musulmani moderati stanno facendo un muro umano davanti alle chiese per proteggere. Un messaggio, questa rivoluzione che succedeva il 30 giugno 2013, quello che è la prima rivoluzione in tutto il mondo, tutta l'umanità, 33 milioni di persone contro il governo dei fratelli musulmani, un messaggio per tutto il mondo. Insomma, padre Gabriel, alla domanda lo sollecitavo su queste 30-40 chiese bruciate in tutto l'Egitto, dice ma non è un disegno specifico contro i cristiani, ma l'idea è di attaccare più simboli possibili, compresi quelli governativi. Siamo con Ugo Tramballi, Sole 24 Ore, che l'Egitto lo conosce e lo frequenta da tempo. Si è parlavamo con te Ugo di questa strumentalizzazione, no, anche politica della questione copta. Che ruolo pensi possano giocare i leader dei fratelli musulmani in questo momento? Fra l'altro dobbiamo ricordare che la figlia di El-Beltaghi è rimasta uccisa mercoledì. Il ruolo politico attualmente dei leader dei fratelli musulmani, che comunque dicono andate in piazza e resistete? Beh, diciamo che i leader più importanti sono in galera, non possono parlare, non possono incontrare nessuno, se non appunto quando l'Unione Europea ha insistito per appunto a tutti i costi per poter andare a vedere almeno Morsi. I leader attuali, sfortunatamente non per niente, i militari non hanno arrestato la guida spirituale, il quale appunto sarebbe stato quello che forse avrebbe più di tutti meritato di andare in galera per le cose che dice, è l'istigatore anche delle manifestazioni di oggi, l'uomo che in tempi non sospetti aveva appunto invocato Dio perché uccidesse tutti gli ebrei, e questo è il livello, è l'uomo che anche ha come dire, è uno dei corresponsabili della fine, dell'insuccesso dell'anno di potere di Morsi, perché era lui l'uomo che negava la possibilità di fare qualsiasi compromesso con le opposizioni. Quindi questi, gli attuali leader che sono fuori, sono i peggiori, sono i meno preparati, e forse questo credo che questo ministero l'avessero fatto recentemente, e quindi stanno portando la fratellanza islamica verso il disastro, un disastro ancora peggiore di quello che a quale abbiamo assistito 2 giorni fa, un disastro prima di tutto in termini di vite umane, ma anche un disastro politico, non resterà nulla dal punto di vista politico se le cose vanno avanti così dei fratelli musulmani, perché è vero che hanno subito un golpe, è vero che Morsi ha vinto le elezioni, i fratelli musulmani hanno vinto tutte le elezioni fatte in questi ultimi 2 anni e mezzo, sì. E devo dire che sono le elezioni più democratiche della storia dell'Egitto, a partire dai faraoni, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, però è anche vero che hanno commesso degli errori devastanti, qualsiasi, in una situazione politica come quella di più di un anno fa, chiunque avesse vinto l'elezione avrebbe cercato di fare un governo inclusivo, non esclusivo, come invece hanno fatto i fratelli musulmani, istigati dalla loro guida suprema. Ugo, un altro X factor della fratellanza musulmana, la presenza di armi. È girato un video diffuso dalle forze di sicurezza egiziane in cui si vedono tra i manifestanti che lanciano pietre anche gente armata di Kalashnikov. Hanno fatto vedere un sequestro di alcune munizioni e appunto alcuni fucili. Secondo te come è possibile fotografare la presenza di uomini armati e come possiamo quantificarla tra le milizie dei fratelli musulmani? Vediamo anche in Italia bande armate di Kalashnikov, anche addirittura Kalashnikov col calcio retrabile, quello dei paracadutisti russi, quindi le migliori armi che ci siano, le vediamo anche bloccare le autostrade per rapinare i portavalori, figuriamoci in Egitto, soprattutto dopo l'implosione della Libia e quindi col grande movimento di armi che dalla Libia si è diffuso in tutto il mondo, ma in particolare in Egitto, considerando le migliaia di chilometri di sabbia di frontiera che c'è fra 2 paesi, dove appunto lo smercio di armi è stato anche estremamente facile, anche perché in questi ultimi due anni la sicurezza e l'ordine pubblico in Egitto si è abbassato per qualità moltissimo. Il Sinai appunto è una prova appunto della situazione estremamente difficile, forse il Sinai è ancora più grave in prospettiva di quanto non sia appunto la porosa frontiera fra Libia ed Egitto, però sì. Insomma, il fatto che anche i fratelli musulmani abbiano delle armi, come dire, non mi stupisce data la situazione sì. politica. E questo fra l'altro è una delle formidabili leve di propaganda che le forze di sicurezza stanno usando in questo momento per giustificare la violenza. Ugo, stai ancora qualche minuto con noi perché voglio far ascoltare anche a te un'altra fotografia che ci consegna Leonardo Goi, che è uno studente di Oxford che sta facendo un lavoro di ricerca sul campo lì al Cairo sull'inclusione politica proprio dei giovani egiziani, e gli ho chiesto, l'ho sentito pochissimi minuti fa, gli ho chiesto una fotografia del Cairo. Allora, in questo momento mi trovo all'isola di Esamale, però per fortuna prima sono riuscito, mi trovavo nel cuore del Cairo e sono riuscito ad avvicinarmi un poco a Piazza Tahrir. Non è una situazione piacevole, nel senso che si respira un'aria completamente diversa da quella che c'era stata negli ultimi giorni, nel senso che almeno fino a ieri, fino almeno gli ultimi 2-3 giorni a Piazza Tahrir si poteva addirittura entrare, nel senso che c'erano dei checkpoint militari, ovviamente le entrate di Piazza Tahrir erano costantemente controllate da militari, eppure muniti di passaporto si riusciva comunque ad entrare e a guardarsi attorno. Ovviamente si sta sviluppando addirittura un'economia attorno alla rivoluzione, nel senso che ci sono persone che stanno vendendo maschere di Al-Sisi, persone che vendono maschere contro Morsi, persone che vendono bandiere dell'Egitto. Questo clima oggi non si respirava assolutamente, nel senso che si tratta di una situazione completamente diversa. C'è un clima di attesa, c'è un'enorme tensione nell'aria e soprattutto c'è c'è uno sconvolgimento totale del rapporto con lo spazio, nel senso che i checkpoint adesso si stanno allargando a tantissime zone limitrofe, piazza, non più attorno alla piazza ma attorno, stanno bloccando i ponti, stanno bloccando le entrate ai ponti. E anche andando semplicemente con un taxi veniamo controllati in continuazione, ovviamente vengono assolutamente vietate fotografie di qualsiasi tipo per scongiurare cattive pubblicità alle forze armate, soprattutto per quanto riguarda le testate straniere, e gli stranieri in particolare non vengono trattati con una certa differenza, ecco, per metterla su un piano abbastanza neutrale. Non è una situazione piacevole nella quale trovarsi, nel senso che ovviamente le notizie continuano a rimbalzare. Fino a poco tempo fa, questa mattina, si parlava di 28 proteste che sarebbero partite dalle 7, ovvero sia dal momento in cui il coprifuoco stabilito 2 giorni fa scatta. Adesso in questo momento si parla addirittura di proteste anticipate, nel senso che il portavoce della Fratellanza Musulmana ha parlato di proteste che partiranno alle 12, dunque sono già partite tecnicamente. Tutte queste cose ovviamente sono impossibili da verificare, uno può rimanere in contatto tramite Twitter, ma le notizie continuano a rimbalzare, non esiste una bussola sicura per orientarsi in questo. Ti interrompo per questa cosa, tu stai lavorando proprio con i giovani e con gli studenti universitari, eccetera. Che polso ci puoi restituire da parte degli studenti universitari? Che termometro? C'è una situazione di polarizzazione incredibile. Io ho la fortuna, perché ritengo che sia una fortuna, di conoscere persone da entrambi gli schieramenti, persone che sono scese a Rabat per manifestare a favore di Morsi e persone che invece contro Morsi farebbero di tutto. Penso che ci sia una situazione di spaesamento totale, una situazione che ovviamente si riflette anche nella mia persona, nel senso che trovare appunto il filo conduttore in tutto questo è impossibile. Ma per quanto riguarda i giovani, penso che ci sia, come me ne parlava poco di tempo fa un ragazzo con il quale ho avuto modo di confrontarmi, un'esplosione di consapevolezza politica, nel senso che tutti, qualsiasi fascia d'età, stanno iniziando a parlare della politica. Penso che forse la cosa più interessante sia questo: l'imprinting con la politica avviene molto presto e di sicuro molto prima di quanto non fosse avvenuto durante Mubarak. Stiamo parlando di una generazione che si è svegliata a Tahrir nel gennaio del 2011. È una generazione che ha subito un imprinting, un battesimo con la politica tramite la protesta. E questo era Leonardo Goy, che sta svolgendo una ricerca per l'Università di Oxford, lì proprio al Cairo, sull'inclusione politica. È interessante quello che diceva, no? La polarizzazione e anche la coscienza politica dei giovani del Cairo. Nessun luogo è lontano. Una società polarizzata, un Cairo ma non solo, un Egitto spaccato in due, è questo quello che si presenta quest'oggi, giornata di preghiera con un coprifuoco che scatta alle 19 di ogni sera, con uno stato di emergenza che non si ricordava da più di un anno, ma era tristemente noto ai tempi di Mubarak, e con una situazione sul terreno che è estremamente fluida, in continua evoluzione. Le agenzie battono in questo esatto istante che almeno 5.000 sostenitori di Morsi sarebbero a piazza Ramses al Cairo. Siamo a un paio di chilometri da piazza Tahrir. I manifestanti si apprestano a dar vita a un corteo, imprecisata la destinazione, così l'agenzia ANSA. Siamo con Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Accennavo prima la domanda che volevo farti, l'X Factor della diplomazia, cioè abbiamo sentito prima il vice ministro degli esteri Marta Dassucci ha spiegato su cosa è fallita fondamentalmente la mediazione dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, questo braccio di ferro tra i militari e i fratelli musulmani dicevano liberate Morsi, i militari dicevano non lo faremo, e lì è fallita la mediazione. Secondo te, Ugo, quale fattore diplomatico può invece riaprire il dialogo? Chi è che può estrarre il coniglio dal cilindro? Secondo me nessuno, e permettimi per questo di tornare indietro alla testimonianza, una bellissima testimonianza di un ragazzo che tiene bene gli occhi aperti attorno a sé, ha capito molte cose. Con un piccolo consiglio in queste ore, di non uscire, di non andare in giro come ha fatto in questi giorni, perché è molto pericoloso, nel senso che noi giornalisti in qualche modo abbiamo una forma di implicito accredito, anche se è pericoloso pure per noi, ma per gli altri è ancora più pericoloso. Sì, a parte che a giudicare quello che è successo, scusa Ugo, mercoledì, altre che accredito, alcuni avevano il mirino sulla schiena, perché insomma è andata molto male a quattro cronisti mercoledì. Pensa per gli altri. Lui ha detto una cosa molto importante, cioè comunque Piazza Tahrir di 2 anni e mezzo fa, che è stata travolta e devastata da un susseguirsi di avvenimenti che l'hanno in qualche modo vanificata, in realtà non è del tutto vanificata, perché da allora in poi gli egiziani hanno capito che il re spesso è nudo e quindi non hanno più paura del potere come era prima, quindi è assolutamente certo che comunque andrà a finire che i fratelli musulmani in qualche modo vincano questo braccio di ferro, che i militari dopo l'ennesimo massacro facciano fuori i fratelli musulmani. Tanti di quei giovani che hanno sostenuto i militari in questo ultimo mese perché avevano paura dei fratelli musulmani torneranno in piazza, come del resto avevano già fatto più di un anno fa, torneranno in piazza a manifestare contro i militari, e da questo appunto non si uscirà più. Quindi è in questo probabilmente la forza di una qualsiasi possibilità di mediazione, cioè qualcuno potente, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, penso più agli Stati Uniti che all'Unione Europea, o comunque la comunità internazionale, che insista su questo elemento. Oramai da Piazza Tahrir non si torna più indietro, quindi i fratelli musulmani non possono tornare al potere cercando di imporre, non l'hanno mai fatto peraltro nella Repubblica Islamica, ma nemmeno cercando di imporre l'esclusività del loro potere, né i militari possono pensare di tornare al potere a rigovernare l'Egitto come prima, come ai tempi di Mubarak. Chiarissimo, come sempre, Ugo Tramballi, grazie per la tua analisi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te. E sempre a proposito di diplomazia, è interessante notare come gli Stati Uniti hanno sospeso, quelle che devono avvenire tra alcuni giorni e alcune settimane, le esercitazioni militari congiunte con gli egiziani, ma non hanno sospeso gli aiuti militari, 1,3 miliardi di dollari l'anno. Cosa che invece ha fatto l'Italia dall'estate, come ricordava il vice ministro da sui nostri microfoni a inizio trasmissione, che proporrà in sede europea lunedì in questa riunione. A Bruxelles proporrà di adottare la stessa misura agli altri paesi dell'Unione Europea. E adesso vi propongo un'altra voce, sempre dal Cairo, è un egiziano, è un giudice e si sta attualmente specializzando in diritto costituzionale e sistemi politici alla Cairo University, si chiama Youssef Aouf e l'ho sollecitato intanto su quello che sta accadendo. Sentite lui come, in che termini parla dei sostenitori di promorsi al Cairo. The sit-ins in Cairo were not peaceful protesters, and they were not using peaceful ways for expressing their opposition for the new political situation in Egypt. Il dottor Aouf dice: i manifestanti promorsi al Cairo non sono stati pacifici. Non è vero che hanno usato metodi pacifici per esprimere la loro posizione verso la nuova situazione politica dell'Egitto. Dice: sto parlando dei sit-in fuori dalla moschea di Rabah al-Adawiyah e in piazza Nada. Hanno usato armi per resistere allo Stato egiziano e per imporre un nuovo status quo, un nuovo potere de facto nelle strade. Sono sicuro, dice, che la maggior parte degli egiziani volesse che i manifestanti fossero sgomberati perché sono un ostacolo per la stabilità del paese. Gli egiziani ne hanno abbastanza di questa instabilità. In the European Union or in the United States or in many other Arab countries, they were not able to understand exactly what's happening. And we can see. E poi, come sentite, è molto duro il dottor Aouf, perché dice: la comunità europea, gli Stati Uniti e gli altri paesi arabi non riescono a capire esattamente cosa stia succedendo qui. L'ho capito da molte dichiarazioni di leader internazionali come Barack Obama. Molti non egiziani pensano che quella dei giorni scorsi sia stata una pacifica manifestazione di dissenso politico per la deposizione di Morsi il 3 luglio, ma non è andata affatto così. La situazione ora sul campo, nelle strade, è davvero preoccupante, pericolosa per la sicurezza nazionale. Dottor Aouf dice: è stato indetto il coprifuoco dalle 7 di sera fino alle 6 di mattina ed è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Misure straordinarie, dice, necessarie per questo momento straordinario per limitare le conseguenze di questa crisi. The implications of this political crisis. E come sentite la leva, no? Il fatto di dire: beh, tra i manifestanti c'erano uomini armati, non è stata una manifestazione del tutto pacifica, viene utilizzata da molti egiziani. Chi mi ha seguito mercoledì si ricorderà anche della testimonianza di un'altra egiziana, una reporter di Al Masri Al Ayoum, Fatima Naout. Lei diceva: hanno sparato i fratelli musulmani, sono stati loro per primi a premere il grilletto. E poi c'è quel video della polizia, delle forze di sicurezza, appunto, dicevo, ricordavo a metà trasmissione, che è stato rilasciato dal Ministero dell'Interno, che mostra tra i manifestanti persone armate di Kalashnikov che sparano contro, appunto, la polizia. Certo, la massiccia presenza di armi nel paese è uno di quei fattori che destano parecchia preoccupazione, come giustamente ricordava anche Ugo Tramballi. E intanto c'è un aggiornamento da Hurghada, perché il Foreign Office britannico ha consigliato a tutti i turisti che soggiornano nella località balneare di Hurghada sul Mar Rosso di restare all'interno dei propri hotel a causa degli scontri in corso in Egitto. E vi dicevo prima che, appunto, c'è anche una marcia di protesta proprio nella zona turistica di Hurghada. Ho le agenzie sott'occhio, quindi da qui fino ai prossimi minuti, in chiusura di trasmissione, vi darò ulteriori aggiornamenti. Manco a dirlo, eccolo qua, battuto il primo aggiornamento. Dimostranti promorsi rispondono al lancio di lacrimogei con fitte sassaiole contro di polizia forze di polizia e forze di sicurezza. Qui siamo a sud del Cairo. Ancora con Youssef Aouf, che è un giurista, è un giudice, l'ho sentito pochi minuti fa. Ho chiesto che cosa chiede lui come egiziano e come uomo di legge alla comunità internazionale. I ask the international community to understand clearly what's happening, simply. And what's happening is not a peaceful protesters. It is not, there is violence in this opposition. E lui dice: io chiedo alla comunità internazionale di capire realmente cosa sta accadendo. Qui non si è trattato di una manifestazione pacifica ma violenta. È così chiaro da vedere, dice Aouf. Abbiamo visto i manifestanti dare fuoco a vari edifici governativi, aule di tribunale, caserme della polizia, college dell'Università del Cairo. Questi non sono atti di pacifica e legittima protesta politica. Quando poi polizia e esercito hanno sgomberato i sit-in a Rabaa e Piazza Nada, hanno trovato centinaia di armi dei manifestanti. Dice, vi sembra l'equipaggiamento di chi vuole manifestare pacificamente? Questa è la situazione che vorrei comprendesse la comunità internazionale. When you see many parts of the country are put on fire, and this is the reaction of the people. E poi prosegue nella sua analisi, dice, ho letto che la Danimarca ieri ha deciso di bloccare gli aiuti all'Egitto, ma non ce ne importa nulla, dice, gli aiuti economici della Danimarca sono irrisori. Barack Obama invece ha cancellato le esercitazioni di settembre tra esercito statunitense e quello egiziano, e lui stigmatizza questa presa di posizione, dice, credo sia una pressione inaccettabile e ingiusta verso il governo e verso la maggior parte della popolazione. È evidente, conclude, che la comunità internazionale non ha capito che cosa sta succedendo. E come se rispondesse al dottor Auf, un'agenzia batte in questo momento la notizia che Barack Obama ha detto riguardo all'interruzione delle esercitazioni militari congiunte, dice Obama, sono poche le opzioni per far pressione sui generali, mentre interrompere gli aiuti militari, quella è un'ipotesi che non convince, anche perché c'è, come dire, uno stratagemma, no, che l'amministrazione americana ha utilizzato per continuare a dare gli aiuti militari, quel miliardo e tre di dollari l'anno, cioè non viene utilizzata la parola colpo di Stato nei documenti ufficiali, il che imporrebbe alla Casa Bianca di sospendere gli aiuti militari, cosa ad esempio che è successa col Mali, si è risolta poi con le ultime elezioni democratiche, e lì insomma con questo stratagemma anche lessicale, anche linguistico, non si parla di colpo di Stato, di golpe, e così gli aiuti militari possono continuare ad arrivare. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo il tempo di sentire l'ultima risposta del dottor Auf, Youssef Auf, giudice, giurista egiziano lì al Cairo. Gli ho chiesto allora quale può essere il fattore risolutivo dal punto di vista diplomatico. The answer for this question has two sides. The first side, I do think that the solution for this should come. E lui dice, la risposta a questa domanda ha due facce diverse. Da una parte, credo che la soluzione a questa crisi debba provenire dall'Egitto e dall'Egitto soltanto. Questa è una grande nazione, uno stato strategico per il Medio Oriente che ha molta influenza sul pensiero musulmano, su quello arabo e su tutta la regione. I mean the identity and the mind of the Egyptian people do not accept too much. Come sentite, dice, per come è fatta la mentalità e l'identità del popolo egiziano, ebbene, gli egiziani non accetteranno mai un intervento esterno nei propri affari. During the whole month of July, the Egyptian government allowed many delegations from the European Union and from the United States. E poi ricorda quegli sforzi diplomatici che purtroppo non sono stati risolutivi. Durante tutto il mese di luglio il governo egiziano ha intessuto colloqui con delegazioni Unione Europea, Stati Uniti e Lega Araba, ma i tentativi di mediazione sono falliti perché c'è un alto grado di polarizzazione nella nazione. Per questo motivo dico, nessuno può trovare una soluzione a questa crisi se non gli egiziani. E sì, siamo quasi in chiusura in questo venerdì di preghiera e di attesa. Tutti si auspicano che le forze di sicurezza egiziane non usino quella mano pesante, anzi pesantissima, per la quale hanno fatto le spese anche quattro cronisti che tentavano di testimoniare le violenze. Vedremo come andrà questo venerdì. Adesso è tempo di saluti. I saluti e i ringraziamenti che vanno a Mire Lucchetti, Isotta Scena in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 13:15, e con il meglio della settimana sabato e domenica sera. Un saluto da Giampaolo Musumeci.